Buonasera dal TG3, apriamo questa edizione del giornale con una notizia drammatica che è arrivata da pochi minuti in redazione. Marco Pantani è stato trovato morto in una stanza di un residence di Rimini. Il cadavere del ciclista è stato trovato dai gestori di questo albergo residence. E mi telefonò Pietro Calabrese, che era direttore della Gazzetta. Erano le 10:30 della sera o qualcosa di questo genere. Mi ha chiamato mio fratello al telefono, che io avevo in braccio il bambino, che gli stavo dando del latte, e mi ha detto: guarda che al telegiornale hanno detto che è morto Marco. Il che io con mia moglie, guarda, quando abbiamo sentito, non mi vergogno di dire, ho pianto veramente. E poi ho acceso la televisione, purtroppo. Alla sera ci telefono lei. Ho chiamato i genitori che erano in Grecia, ho chiamato prima Tonina, poi non prendeva il telefono, ho chiamato Paolo e... Pensa che io dal 99 non spegnevo più il cellulare neanche di notte. Io quella sera ho spento il cellulare. Mio marito, che lo spegne sempre, l'ha tenuto acceso. E ho avuto purtroppo questo ingrato compito di dare la notizia. Come mi sono infilata a letto, il cellulare di Paolo suona ed era lei che diceva che Marco era morto. Antonio De Renzis, avvocato della famiglia Pantani, il 2 agosto la Procura di Rimini ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di Marco Pantani. Quali sono le prove che hanno portato a questa riapertura? Diciamo che per quanto riguarda la parte scientifica, il professor Avato anticipa di circa un'ora l'orario della morte, l'ingente quantitativo di cocaina che Marco aveva nell'organismo, parliamo di decine e decine di grammi, che ovviamente non poteva essere mangiata, e la movimentazione del cadavere fatta presumibilmente dalle 15 alle 18, perché ci sono delle tracce di striature di sangue, con il sangue non liquido ma neppure completamente coagulato, e le ferite che Marco aveva, che sono diverse sul volto: un taglio arcato sopraccigliare, un bernoccolo sulla testa, due tagli, due ferite dietro, che possono essere perfettamente compatibili con l'opera di terzi. Ora è venuto fuori un fax che sposterebbe l'orario della morte alle 17 del pomeriggio e non alle 11:30-12:30 come era stato detto nel rapporto ufficiale. Perché cambia tutto così? No, beh, guardi, questo fax è stato mandato alle 20:50 del 16 febbraio. Sinceramente non so spiegarle una cosa difficilmente spiegabile, nel senso che ipotizzare che dopo un'autopsia di un cadavere morto da 48 ore ci possa essere un divario di 5 ore, 5 ore e mezza, e cioè prima vengono dette le 17, poi dopo qualche giorno diventano tra le 11:30 e le 12:30, non spetta a me spiegarlo, però immagino che tra chi ascolta ci siano dei medici, e penso che anche un medico di base possa dare delle risposte. Poi il perché è successo non lo devo appurare io, sarà qualcuno che dovrà fare le domande e chiedere come mai inizialmente viene dato come orario alle 17, che è un orario lontanissimo, perché 5 ore post autopsia sono un lasso temporale enorme. E l'orologio, il famoso Daytona che Marco aveva al polso, e che a che ora si sarebbe fermato? Fermo alle 5:05, questo sì. Del pomeriggio? Beh, diciamo alle 5:05 è fermo. Ora, quel modello di orologio, lei sa perfettamente che anche se rimane fermo su un tavolo, prosegue per decine di ore la sua movimentazione. Certo, uno può dire che Marco lo teneva fermo, rotto al polso anche da 2 o 3 giorni. Penso sia più credibile ritenere che forse è stato rotto alle 5 del pomeriggio. In ogni caso verrà prodotta una perizia anche sull'orologio, ma ripeto, la cosa che deve interessare molto è come mai 10 anni fa, vedendo un orologio fermo alle 5:05, nessuno l'ha esaminato. Esatto, perché come è potuto accadere che nessuno l'avesse notato prima? Beh, forse per lo stesso meccanismo per cui non sono state prese le impronte digitali, forse per lo stesso meccanismo per cui un poliziotto dice, sempre nel video, al medico legale, al medico della scientifica: ci sono delle tracce di cocaina sulla bottiglia, lui dice le posso toccare, il poliziotto dice no, non le tocchi, peccato che poi il contenuto della bottiglia non viene esaminato e neanche il bicchiere a fianco alla bottiglia, per lo stesso motivo per cui si è detto categoricamente che nessuno è entrato e nessuno è uscito da quella camera, pur avendo i residence tre entrate, di cui una diretta dal garage, che fino alle 21 era accessibile a chiunque. Alla fine, insomma, chi potrebbe aver avuto interesse ad uccidere Pantani? Noi adesso dobbiamo esclusivamente dimostrare che la verità ufficiale fa acqua da tutte le parti. A quel punto, se si riuscirà con grande serenità, con grande obiettività e onestà intellettuale a dire sì, effettivamente 10 anni fa si poteva fare tanto di più e tante cose diverse. Un'opinione ce l'avrà, ma non ce la può dire? Ce l'ho e come, e me la tengo assolutamente per me. Detto questo, io comunque in questo momento sto cercando di andare avanti passo dopo passo, dimostrando che alcune risultanze dell'epoca non stanno in piedi. A quel punto, cominciando a dare delle risposte un po' più plausibili, allora forse la verità... Un ambito su cui la procura sta indagando... Ma so che stanno iniziando a sentire delle persone. Guardi, una per tutte... Anche per non abusare del vostro tempo, ma una per tutte è questa. Viene ritrovato la carta di un cornetto molto famoso gelato nel cestino del bagno di Marco Pantani. Siamo a metà febbraio, non c'era il freezer, non lo poteva conservare in camera, nessuno è entrato, quel giorno non ha fatto colazione, aveva una modesta quantità di cibo non consumato, come dice l'autopsia, quindi frutto di una piccola colazione. Ma perché non abbiamo preso le impronte digitali per vedere da dove arrivava questo cornetto? Così da dove arrivavano i giubbotti, che lui non aveva quando è arrivato a Rimini, ma che sono in quella stanza, giubbotti da sci molto visibili. Ecco, la mia domanda è: perché non ci siamo fatti queste domande 10 anni fa? Ma mi dica la sua opinione, so che sono insistente, ma mi dica la sua opinione, chi potrebbe essere stato? Ce lo chiediamo. No, l'opinione che le posso dire in questo momento è che se io sono convinto che in quella stanza Marco in quei 5 giorni non è stato da solo. È un momento storico per il nostro ciclismo. Marco Pantani, dopo 33 anni, rivince il Tour de France e porta a termine una doppietta che dimostra che è un fuoriclasse.